Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Parliamo con l'elefante, sì, ma fino a un certo punto, perché oggi l'elefante a sua volta parla con Stefano Cingolani, editorialista del Foglio, buongiorno Cingolani, ed economista, e con il ministro Giulio Tremonti, ministro dell'Economia e delle Finanze. E quindi oggi è un parlare, diciamo, a largo raggio, e potete porre delle domande, soddisfare le vostre curiosità con chi ha le redini non soltanto dell'economia italiana, ma in un certo senso, naturalmente insieme con il Presidente del Consiglio, le redini del G8, insomma, potete parlare con chi ha le mani in pasta con l'economia internazionale in un momento veramente molto, molto, molto drammatico. Pensate solo alla storia del protezionismo, alla storia degli 80 lavoratori italiani, 20 dei quali anzi sono poi portoghesi, ma insomma prevalentemente italiani, di Siracusa, dipendenti dell'azienda IREM, un'azienda diciamo che si occupa di progettazione e realizzazione di impianti industriali, e che da molti anni, da decenni, lavora in tutta Europa, in tutto il mondo, anche nel mondo arabo. Questa azienda, la IREM di Siracusa, di cui è amministratore delegato Mario Saraceno, cosa fa? Niente, sta realizzando un appalto regolarmente vinto per un insediamento industriale nel Lincolnshire, a Grimsby. E questo centinaio di lavoratori italiani, poi naturalmente ce ne sono altri inglesi, Mario Saraceno, l'amministratore delegato della IREM, dice: ma io ho parlato con i sindacati, io ho seguito tutte le norme, tutte le regole, ho dimostrato che pagheremo gli italiani esattamente come pagheremo i lavoratori inglesi di altre nazionalità, eccetera, eccetera. E loro sono lì in una nave affittata, in una nave albergo a Grimsby, in attesa di poter lavorare, perché le proteste sindacali sono talmente forti che hanno bloccato l'appalto. Ecco, un caso alla grande di protezionismo, ma non di protezionismo di clausole, la clausola Buy America, con la quale viene varato il pacchetto di stimolo del presidente Obama proprio in questi giorni. No, non è un protezionismo delle clausole, è un protezionismo dell'anima, un protezionismo che entra dentro le tensioni sociali, che entra dentro la voglia di battaglia dei sindacati, ed è una cosa contro tutte le regole dell'economia che abbiamo conosciuto dai tempi in cui è nata e si è espansa rapidamente la cosiddetta globalizzazione, l'apertura dei mercati. È una roba che va contro tutte le regole con le quali è stata fatta l'Europa, no? Insomma, è pazzesco. Ci sono degli operai italiani che regolarmente lavorano in Inghilterra, così come operai inglesi e di altre nazionalità lavorano in diversi paesi del mondo attraverso le delocalizzazioni industriali, e c'è una contestazione dei sindacati che mette in discussione il primo ministro di Sua Maestà Britannica. Insomma, non è roba da poco, anche perché loro, i lavoratori, hanno dei cartelli in cui c'è scritto British jobs for British workers, cioè lavori inglesi per lavoratori inglesi. E naturalmente loro dicono: sapete chi ha detto questa cosa che noi adesso sosteniamo? L'ha detta Gordon Brown due anni fa, e l'ha detta in un congresso del Labour Party, del partito che ha uno stretto storico istituzionale legame con i sindacati. Insomma, la grande ondata di riflusso dell'idea che l'economia guadagna dall'essere libera, che gli investimenti, la produzione di ricchezza, di reddito sociale guadagnano dall'apertura dei mercati, è contestata, e ripeto, non più soltanto da clausole di governi, non più soltanto da dibattiti parlamentari, ma è contestata in forma sociale. Addirittura Enrico Franceschini su Repubblica scrive oggi: Gordon Brown potrebbe cadere per l'arrivo di 100 operai italiani nel Regno Unito. È un modo forse, come dire, un po', non dico forzato, ma insomma di sintesi letteraria. Magari non è così, magari non sarà così, però certo c'è una crisi seria, vera, politica e sociale in Inghilterra, che riguarda la possibilità di lavoro non di 100.000, ma di 100 operai italiani in un cantiere appalto della IREM di Siracusa a Grimsby. E questo la dice lunga sul rischio protezionismo e sulle tensioni che questo può comportare oggi in Inghilterra, domani in Italia, dopodomani in Francia, in Germania, in Spagna, insomma in tutto il mondo. Bene, Stefano Cingolani, protezionismo. Io ho raccontato questa storia apparentemente semplice, apparentemente banale, invece molto drammatica e teatralizzata dallo stesso Gordon Brown, che ne parla senza sapere bene come districarsi, di protezionismo, di lotte sociali e sindacali contro la presenza di operai stranieri sul suolo inglese, in questo caso gli italiani della ditta Irem di Siracusa. C'è chi dice bisogna fare i conti col protezionismo, non c'è niente da fare, è un riflesso normale. C'è invece chi dice, come Peter Mandelson, il ministro delle attività produttive inglese, il protezionismo sarà la tomba dell'economia mondiale, nel senso che se per uscire dalla crisi facciamo del protezionismo, la crisi diventerà non più recessione ma depressione, cioè una lunga fase di depressione dell'economia. In teoria ha ragione Mandelson, perché poi l'abbiamo già visto negli anni 30, è successo questo, c'è stato, no? Sì, il paragone con la grande depressione, c'è stata una reazione protezionistica che ha peggiorato la situazione. Sul piano però politico e sociale, come possiamo non fare i conti, governi, sindacati, eccetera, con queste spinte e con queste reazioni? Il punto è possibile controllarle, è possibile... Cioè, io ho apprezzato Gordon Brown che insomma ha fatto un'azione pedagogica dicendo no, queste sono cose terribili, però effettivamente la sua constituency, le trade unions, marcia nel senso, in senso opposto, quindi non so come riuscirà a farlo. L'altra cosa che mi colpisce è questo, insomma, come mai, allora tu si dice che la crisi è colpa della finanza, è crisi della finanza, è colpa delle banche, dei banchieri che hanno cambiato, snaturato il loro mestiere. Si dice che l'Inghilterra sta in questa situazione peggiore di quella italiana perché è diventata troppo servizi e finanza, poco industria, la City si è mangiata tutto, eccetera, eccetera. Però le trade unions non portano gli operai nella City. Non ho visto manifestazioni contro i banchieri, invece contro gli italiani. Questa è la cosa abbastanza paradossale. Però sarà così, sarà così. Maurizio da Verona. Sì, buongiorno. Sì, Maurizio, l'ascoltiamo. Aspettando Tremonti, che dovrebbe arrivare tra poco. Volevo fare un plauso al ministro, anche se Luciano Nicata lo chiama genialoide, io lo chiamerei geniale, perché è riuscito prima di tutti a intervenire e a anticipare quelli che erano gli effetti della crisi. Anzi, dovrebbe essere questo un monito per autorità come la Banca d'Italia, per la Banca Centrale Europea, che invece di fare le operazioni che dovevano fare hanno aspettato che tutto il crollo venisse. E poi anche quello di cui state parlando adesso, del protezionismo, ma è evidente che la gente cerca uno spazio per proteggersi, questo al di là di tutte le parole, tutti farebbero così, perché quando uno viene picchiato... Ma lei non ha paura però che questo difendersi nel proprio orto, nel proprio recinto, deprima quella cosa che obiettivamente adesso, al di là degli eccessi, al di là dei derivati, al di là di tutte queste polemiche giuste sulla radice, diciamo, della crisi di questo capitalismo liberalizzato, senza regole o deregolamentato, beh, al di là di questo però insomma il mondo è diventato molto più ricco, abbiamo ridotto l'area della povertà, abbiamo potuto finanziare politiche coordinate di aiuti al terzo mondo attraverso la cosiddetta, diciamo, globalizzazione dei mercati. Lei non pensa che una ondata di protezionismo potrebbe essere anche negativa e trasformare appunto la recessione in depressione? Maurizio? Sì, sì, è un'ondata di protezionismo che è sbagliato, perché una dose misurata invece aiuta l'economia a ristabilirsi. Guardi il Giappone come è rinato, con un'autarchia, se vuole, eccessiva. Ma una dose misurata di protezionismo ci può aiutare. Maurizio da Verona. Bene, fa piacere sentire dei giudizi così, insomma, anche equilibrati. È arrivato, credo, il ministro Tremonti. Ministro, buongiorno. Buongiorno a voi, a lei e a voi. Buongiorno. Dunque, io comincerei da alcuni dati. Siamo qui con Stefano Cingolani e vogliamo solo sapere il suo pensiero sulle cose, diciamo, che preoccupano tutti. I primi dati sono questi, vabbè, meno 3,8% il prodotto interno lordo americano nell'ultimo trimestre del 2008, l'occupazione gennaio, i dati ufficiali ci saranno soltanto venerdì, ma intanto le previsioni riportate oggi dalla Reuters, da Bloomberg, sono meno 524.000 posti di lavoro, con un tasso di disoccupazione che passerebbe dal 7,2% al 7,5%, il massimo in 16 anni. E si aspettano in settimana anche i dati sull'automobile, che naturalmente saranno molto, molto, molto negativi, e sul commercio al dettaglio. La borsa non ne parliamo proprio, gennaio è stato un meno 8,84%, un record praticamente secolare. E insomma, sul piano Obama, vabbè, ci sono stati problemi alla Camera, ci saranno anche in Senato, ci sono pari dissensi nell'amministrazione su come operare nel rapporto con le banche, con la finanza. Ministro, il quadro è, diciamo, a partire dall'America, che è l'origine, diciamo, della crisi, sconfortante. Che ci può dire? Ma il quadro americano l'ha definito il presidente americano, ha detto che è un disastro. Ha detto che contano i numeri, le statistiche, ma contano soprattutto i fatti che si vedono andando in giro nella realtà, e credo di concordare. Primo elemento fondamentale, le statistiche, le conture, le analisi che si fanno in questo periodo sono utili, ma ti rappresentano solo un pezzo della realtà, che può essere più brutta o diversa o più bella anche, dato che i tempi sono tempi di continuo cambiamento. Una volta, in un mondo più lento, più fermo, più statico, queste proiezioni, queste congetture avevano un fondamento e alla fine qualche volta si verificavano. Adesso i dati sono quelli che ti dà la realtà e sono, come ha detto il presidente americano, un disastro. Un disastro, sì, certo. E l'epicentro della crisi è l'America, è stata la causa e subisce gli effetti della crisi. Una politica sbagliata fatta per troppo tempo e troppo fortemente. Questa è la situazione. Ecco, sgombriamo subito il campo, ministro, da una questione, diciamo, che riguarda il cuore, non delle sue idee, perché le sue idee adesso poi ne discuteremo, la bad bank, il sabbatico, insomma le sue idee sono importanti e globali, ma per quello che riguarda l'Italia sgombriamo il campo dalla questione, diciamo, politicamente più rilevante oggi. Sono in molti ad applaudirla. Chi la fischia, o comunque chi fa rilievi, adesso poi Cingolani si è letto bene anche lo Scalfari di domenica e dirà qualcosa, sostiene che noi siamo un po' i portoghesi del mondo. Il nostro protezionismo è fatto così, che noi spendiamo poco, ci proteggiamo il nostro ingente debito pubblico, cosa naturalmente commendevole e lodevole, ma poi stimoliamo poco l'economia, contando sulla ripresa altrui, Germania, Stati Uniti, eccetera, per riuscire poi a riprenderci attraverso le esportazioni. Lei risponde invece: non è vero che spendiamo poco, noi abbiamo messo 6 miliardi nel decreto anticrisi, 16 miliardi per le infrastrutture, 8 miliardi sono in discussione gli ultimi dettagli nel negoziato con le regioni per gli ammortizzatori sociali, più 10 miliardi di finanziamento alle imprese attraverso i bond bancari, insomma 30 più 10 sono 40 miliardi. Quindi lei dice: noi, è un piano dignitoso, europeo, di standard internazionale. E invece la Confindustria, che tra l'altro è il nostro editore, ed altri dicono: no, ci vogliono più soldi, bisogna fare iniezioni più robuste di liquidità nel sistema, bisogna combattere la crisi da debito con il debito. La sua risposta qual è? Che combattere la droga con la droga, l'alcol con l'alcol, è sbagliato. Questa è una crisi che nel mondo, in America, in Europa, è evidentemente causata da troppo debito privato. Pensare che se ne esce con più debito pubblico è sbagliato dappertutto. Io in tutte le sedi internazionali, e devo dire di questi tempi con un crescendo di attenzione, di rispetto e di ascolto, dico che la soluzione non è nel mettere nell'economia più capitale drogato dal debito, ma più regole capaci di farci venire fuori dalla crisi. Quando ho cominciato a dirlo è stato in un'intervista al Corriere al principio della crisi, nel settembre del 2007, chiedevo nuove regole morali, contabili, etiche. Adesso si comincia a formulare esattamente questa richiesta. Io credo che per in generale, in giro per il mondo, se uno è alcolizzato non è che lo curi, dico bevi troppo cognac, ti suggerisco i whisky. Non è così che si fa, bisogna capire che la crisi ha un'origine nella finanza, ha un male dentro la finanza, e se tu hai male al cuore ti operi al cuore, non ti operi alle gambe. La crisi della finanza si sta estendendo all'economia, ma non è che dal lato dell'economia tu trovi la soluzione di questa crisi. Io credo che gli aiuti all'economia sono necessari per garantire la coesione sociale, gli ammortizzatori sociali, o per tenere l'apparato industriale e quindi per tenere i finanziamenti, per tenere in piedi le strutture industriali, ma non c'è governo che tenga, che possa sostituire quello che è mancato, e cioè dire la domanda, la fiducia. I governi hanno un modo per restituire la fiducia, ma non è mettendo più debito pubblico, ma è assolutamente mettendo più regole, che è il dovere che i governi hanno. Fino a qualche tempo fa, ripeto, questo discorso era inaccettabile. Adesso si comincia a punire chi ha sbagliato, si comincia a fare un discorso sulle regole, si comincia a capire che la politica deve avere un ruolo di cambiamento, di rottura degli schemi di continuità. E ancora fino a poco tempo fa, se dicevi queste cose venivi considerato come uno fuori dal coro, fuori dal vestito. Lei, Ministro, è anche tra coloro che pensano che l'efficacia delle politiche di stimolo, lei si augura naturalmente che il 2009-2010 sia un biennio nel quale queste politiche di stimolo in tutto il mondo generano un accenno di ripresa consistente, questo è ovvio, ce lo auguriamo, ma lei la giudica dubbia l'efficacia? Forse appunto non ho il dono della chiarezza, io dico che sono necessarie per garantire la coesione sociale, che sono necessarie per la conservazione della parte industriale, ma non credo che a un deficit non sono risolutive. Di fiducia che c'è nel mondo della finanza o da un eccesso di debito che ha causato la crisi, non credo che la cura sia fare più debito pensando di stimolare il menisco o le gambe quando magari il male ce l'hai al cuore, questo è. Lei pensa, scusi Ministro, che la clausola Buy America, che è stata introdotta nel pacchetto di stimolo di Obama, e cioè l'acciaio ce lo compriamo americano, non ci compriamo l'acciaio cinese, anche se quello cinese costa di meno, oppure la storia degli operai italiani della IREM in Inghilterra combattuti dai sindacati con lo slogan British Jobs for British Workers, questi segnali, diciamo, di protezionismo, perché lei fu il primo a parlare della necessità di stabilire nuove regole nel commercio mondiale, secondo lei sono preoccupanti o devono essere considerati? Guardi, anche qui, anzi, la ringrazio per questa domanda che mi fa, come dire, chiarire. Io non sono mai stato, poi ovviamente se tu vuoi cercare, come dire, dei pretesti o dei nemici quando non hai argomenti ti inventi, io non sono mai stato protezionista, ho sempre detto che dovevamo metterci in parità di condizioni dall'Europa verso la Cina. Noi abbiamo imprese che devono applicare regole pesanti e lunghe, chilometri e chilometri, su come si fanno i fagioli, i piselli, gli impianti di luce, i seggiolini delle datilografe, mentre in Asia l'unica regola è non avere regole. Certo. Allora io non ho mai detto di penalizzare loro, ho sempre detto di essere meno stupidi noi, questo è il punto essenziale. Non ha senso che uno corre con uno zainetto pieno di pietre che si mette lui stesso sulle spalle e gli altri invece sono belli liberi e corrono leggeri, tutto qua. Il protezionismo in America su certi prodotti, su certi settori c'è sempre stato. Io mi ricordo che avevano messo un dazio su un certo prodotto, alla fine vinci la causa e ti dicono sì, ma per ragioni di sicurezza invece di sbarcare sulla costa atlantica siamo attrezzati sulla costa pacifica. Ci sono sempre stati meccanismi di autodifesa, certo. Così come ci sono meccanismi molto più pesanti in Asia, in Cina. Sì. Il mercato perfetto dovrebbe essere bilaterale, ma ripeto, è tutti e due aperti. Il vero problema, i governi che fanno queste politiche lo fanno per ragioni simboliche, per politica interna, tant'è vero che il governo inglese in Inghilterra dice una cosa e l'Europa dice l'opposto. Signor Ministro, sono Cingolani, io volevo fare un piccolissimo ritorno sul tema che lei ha sollevato, non si combatte il debito con il debito. Ora, naturalmente questo per l'Italia vale ancora di più perché gli spazi di manovra italiani sono ancora più ridotti, tutti quelli che chiedono più spese poi più soldi, insomma, non posso non ammettere che di soldi ce ne sono ben pochi. Però la crisi può essere il momento giusto per introdurre delle riforme che non necessariamente aumentano il debito, anzi possono ridurlo. Per esempio, lei stessa ha sollevato la questione delle pensioni. Insomma. No, ma anche lì è stata la PICOM stessa e la Repubblica stessa a sollevare la questione. Io non l'ho mica sollevata in quei termini, in quel modo. Anche qui io stavo all'estero, tra l'altro non sono mica uno che va all'estero a parlare dell'Italia e a parlare di cose importanti autonomamente e indipendentemente. Alla fine del dibattito un signore mi ha chiesto se era vero che l'Italia stava fallendo perché non aveva fatto le riforme strutturali. Naturalmente una riforma, se non è strutturale, non è. E mi ha detto se è vero che noi stavamo uscendo dall'euro, se stavamo fallendo, eccetera. Io gli ho detto la ringrazio per l'attenzione che riserva al mio paese, ma noi, e ha usato l'espressione sì. We, che si usa di solito quando viene in ballo non la persona o il governo italiano, ma il paese. Bene o male, altri sono più efficaci di me naturalmente, io ho detto oui e ho cominciato a dire noi comunque siamo un paese che ha un alto debito pubblico ma un bassissimo debito privato, anzi risparmio, e se metti insieme le due cose vedi che l'Italia, oui, siamo meglio di molti altri che prima ci sembravano così forti. Ho detto che abbiamo 4 milioni di partite IVA, che non le ha il governo italiano, 4 milioni di partite IVA, le ha l'Italia e sono una forza, sono un fattore di vitalità nel quale noi tutti dobbiamo molto confidare, sono piccole imprese, lavoratori autonomi, professionisti, giovani che comunque hanno una grande forza. Ho detto che abbiamo un sistema finanziario relativamente più solido, che non è basato sui call center, ma anche sulle reti, gli sportelli, sulla fiducia, su una enorme capacità ancora di raccogliere la fiducia e di dare denaro. E poi ho detto, certo, esistono anche le riforme strutturali e noi le stiamo considerando. Vuole che ne dica una? A proposito di Stato sociale, il federalismo fiscale sarà una radicale riforma strutturale, perché è basato sul principio che i diritti alla salute sono uguali e che i costi devono essere uguali, sarà sì che molti che nel Mezzogiorno hanno diritti più bassi, tanto per venire nel nord. Però, Ministro, dobbiamo richiamarla perché purtroppo non... Sì, ecco, adesso ci sentiamo. Il federalismo fiscale però dicono che costa, non comporta risparmi. Ma guardi, chi lo dice non ha la minima idea di quello che dice. Uh-huh. È basato sul criterio per cui esiste un diritto uguale in tutta Italia per tutti, ma ci deve essere anche un costo. Purtroppo ci sono moltissime regioni che danno diritti più bassi e hanno costi più alti e queste regioni sono in molte aree del paese e sono regioni nel quale la differenza tra il diritto che è più basso e il costo che è più alto si chiama malgoverno o malavita e questo è un modo per riformare lo Stato sociale. Stiamo ragionando su molte cose, ma ho detto oui nel senso di noi come paese stiamo ragionando, discutendo, c'è un dibattito in atto. In un'intervista al ministro Tremonti al Corriere della Sera lei ha scomodato la Bibbia con una citazione dal Levitico per dire che bisogna separare il bene dal male, bisogna cioè fare una bad bank, una banca cattiva, la banca dei titoli tossici. E ha detto la formula va definita, ma passando dalla Bibbia alla finanza lo schema è quello della bad bank, costituire contenitori ad hoc, immetterci i derivati, eccetera, pianificare una lunghissima moratoria, modificare conseguentemente le regole contabili. Lei dice bisogna combattere la crisi finanziaria con strumenti di intervento, regole e contenitori finanziari che separino il tossico dal sano. Come si fa? Chi concretamente può fare questa cosa? Di bad bank ormai parlano praticamente tutti i governi, ne ha parlato persino il Wall Street Journal, ne hanno parlato organi diciamo che sono stati portavoce in senso culturale della vecchia ideologia economica. Però la bad bank di cui lei parla, quella in cui i titoli di tutto il mondo per scongiurare una crisi apocalittica diciamo della finanza vengono messi insieme e separati, Chi la fa? La fate voi col G8? La fa il G20? Come si fa? Vorremmo qualche delucidazione. Guardi, è anche un po' presto per dirlo. Idee di questo tipo fanno parte del pensiero laterale, non del pensiero convenzionale. Il solo fatto di poterle esporre, di lanciarle, è di per sé rivoluzionario. Il fatto che te le ascoltino rappresenta una rottura di continuità che, ripeto, fino a pochi mesi fa era impensabile. Chi lo deve o chi lo può fare? Non esiste il governo del mondo, esistono nel mondo governi che hanno competenza sui loro stati. Più grandi sono gli stati e più bisogno c'è di queste regole, più il meccanismo ha possibilità di funzionare. Non è che neanche il G8 o il G20 dà degli ordini, definisce degli schemi di consenso, ma poi l'applicazione va fatta governo per governo. Sicuramente se entra in pista nei circuiti una idea, poi dopo il meccanismo di applicazione può essere più, se viene sdoganata, se viene legittimata, il meccanismo interno di applicazione può essere più probabile, più facile. Lì il discorso è molto semplice. Io ho detto la crisi, si fa per dire, molto semplice, ma bisogna semplificare molto. Ed è così, la crisi deriva dalla globalizzazione, dall'anarchia, dagli spazi anarchici che la globalizzazione ha creato e consentito anche e soprattutto per la finanza. E in un mondo anarchico e caotico come quello che si è creato negli ultimi 10 anni, si sono applicati dei meccanismi degenerativi del capitalismo. Il capitalismo è basato sulle regole, è stato per secoli, per decenni basato sulle regole. Per la prima volta si apre un mondo capitalistico senza regole o con poche regole o regole che possono essere aggirate e disapplicate. Puoi fare in questo mondo l'applicazione di strumenti che non sono controllati, sono gli equity, gli hedge fund, puoi fare dei contratti che sono fuori da ogni tipo di controllo e sono i cosiddetti derivati. Derivati sono, come dire, un pezzo di un mondo ancora più complicato, eterogeneo e follemente. I contratti troppo anomali finanziari. Certo. Sono chiamiamole scommesse. Erano meccanismi che avevano una logica di assicurazione: finché uno scommetteva contro l'altro e veniva pareggiato il tasso di rischio, e poi sono diventati fini a se stesso. I derivati stanno dappertutto. Il fatto che Ministro, scusi. I comuni italiani indica il tasso di diffusione e di rischio che c'è. I derivati sono in tutto il mondo e in tutto il mondo si ha paura che la tua controparte abbia dentro roba di quel tipo. Sì. Ecco, ministro, scusi, ma questi titoli tossici che dovremmo togliere, che si dovrebbero togliere dalle banche, dal sistema bancario, eccetera, e inserire in questa bad bank, oggi come oggi, a parte è difficile sapere a quanto ammontino, ma non hanno un valore. Bisognerebbe quindi attribuire un valore, diciamo, fittizio o comunque pro forma? Questo è il discorso. Allora, primo, secondo me uno dovrebbe fare un discorso di questo tipo. Primo, capire che la crisi non è fuori ma dentro la finanza. Capire che dentro la finanza la crisi è fatta da strumenti, contratti di questo tipo, da queste follie di scommesse, sì, di rischio. Certo. Capire che il problema non è neanche quanti sono o per quanto sono. Capire che non sai chi ce li ha. Tu sei una banca, fai un finanziamento a un'impresa, sei convinto che tutto sia a posto e poi ti arriva il fulmine e tu perdi quel credito. Allora cosa fai? Non gli dai credito e blocchi tutto. E lo stesso è nel rapporto tra le banche, tra le finanziarie. E ripeto, un tasso di rischio estremamente... È il rischio che i matematici dicono incalcolabile. Sì, parola terribile che lei ha usato rischio in quella intervista. Questa il rischio incalcolabile. Allora, capito tutto questo, pensi che tu devi segregare, dividere, dice la Bibbia, il grano dall'olio, il bene dal male. E questo è un passaggio. Capire questo e cercare di agirci sopra. Come farlo? Secondo alcuni che sono ancora nella logica del vecchio pensiero, del vecchio mondo, tu fai questi contenitori e poi compri dalle banche o da chi ha questa roba, compri dei, questi valori, questi contratti, questi rapporti e gli dai un valore convenzionale. Valgono 100, dici, te lo stimo il 20%. Certo, l'importante è isolarli dal circuito in modo no, che... E poi, però dice chi lo paga? I esatto. contribuenti. Io credo che questa sia la tecnica sbagliata, certo. insostenibile, perché comunque vuol dire che tu a questa realtà gli dai comunque un senso, un valore. Io credo che la cosa migliore sia staccare la spina, cioè sospenderli per 50 anni, per 30 anni, per 10 anni, per 20 anni. Evidentemente crei dei problemi, delle asimmetrie, chi ci guadagna, chi ci perde, ma credo che il rischio connesso a queste anomalie sia inferiore al rischio immanente e permanente di lasciarli in circolazione. Perfetto, il ragionamento diciamo non fa, però, come si dice, una grinza. Scusi. Scelte di questo tipo non dipendono da un ministro, no, da certo. un governo, ma presuppongono dei passaggi generali e fondamentali che sono... L'altro aspetto è la globalizzazione, non c'è il governo del mondo, i fatti sono globali ma i governi sono locali, devono mettersi insieme, ma mettere insieme G7, G8, G20, G-mondo non è mica semplice. Una tradizionale soluzione semplificata, Massimo da Roma. Massimo. Sì, mi sentite? Sì. Buongiorno a tutti. Che soluzione ha in tasca lei? No, no, non ho nessuna soluzione in tasca, non ho la pretesa. Mi chiedevo appunto se una soluzione di questo genere potrebbe essere praticabile, ovvero visto che se qualcuno ci ha rimesso... Quale soluzione? Beh, quella di ricorrere diciamo a un prelievo sui patrimoni che bene o male in questo periodo di finanza più o meno allegra si sono accumulati. Questo è un... Un prelievo sui patrimoni finanziari accumulati negli anni della finanza allegra. Grazie. Ministro, cosa ne pensa? Ma francamente non mi sembra la soluzione. Questa è, come dire, la cosa che deve fare è ristabilire condizioni normali. Stabilire condizioni normali in economia è fondamentale, ristabilire la fiducia. Una volta che hai stabilito condizioni normali in termini di fiducia, puoi o no, secondo le tue idee politiche, fare una scelta di, come dire, di redistribuzione, ma io credo che primum vivere, il problema in questo momento non è redistribuire, in questo momento il problema è tenere in piedi il sistema. Faccio notare che già segregare, mettere in moratoria, far finta che non ci siano queste operazioni nel dare e nell'avere, beh, chi ha speculato ci perde parecchio, certo, esattamente. Certo. Quindi già qui, infatti io credo che l'idea della bad bank che si fa, ormai si va a fare, questo a proposito del governo italiano che non ha idee, che non conta niente, si va a fare dove è necessario, però ti dicono quei soldi dei contribuenti. Mm-hmm. Io credo che un modo giusto sia farla senza i soldi dei contribuenti. Che in Italia c'è bisogno di una bad bank, ministro? Guardi, il sistema italiano si basa sulla vigilanza bancaria fatta dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia ha la competenza assoluta su questa materia e informa il governo sulle situazioni di vigilanza. Attualmente ha dato solo informazioni positive e questo è oggettivamente positivo per il nostro paese. Ecco, a proposito, Mario Draghi a Davos ha detto l'unica cosa che possiamo fare per aiutare il mercato a ripartire è quella di dire al mondo che ci sono alcuni tipi di prodotti finanziari reali che sono facili da capire, semplici da apprezzare e che soddisfano determinate condizioni legali. Cioè, una delle preoccupazioni del governatore della Banca d'Italia è di dire guardate che non tutta la finanza è malata, c'è una finanza sana alla quale si può ancora accedere, che può essere fatta giocare nel mercato. Lei è d'accordo su questo accento? Guardi, io insisto nel dire che il problema della finanza di solito, come dire, mi come di capire che è un periodo che ci prende abbastanza. Io credo che il problema vero sia quello di isolare il male dal bene. Poi il bene viene fuori per differenza, ma tu puoi vendere, dire che hai un buon prodotto, ma se gli altri temono che ci abbia dentro un vizio occulto, buono. Il vero problema è una grande operazione non convenzionale, radicale di chiarezza. Io credo che sia arrivato il momento di un pensiero, di un'azione non convenzionale, non Secondo lei bisogna rivedere anche la legge bancaria? Cioè, in sostanza, ammettiamo che noi riusciamo a fare questa operazione chirurgica, poi per evitare di ricadere negli stessi errori non bisogna ripristinare una distinzione tra credito a breve, credito a lungo, credito mobiliare, no, credito guardi, ordinario, eccetera? Guardi, io ho detto il sistema italiano è vigilato dalla Banca d'Italia, la vigilanza della Banca d'Italia finora ci ha dato solo indicazioni positive e questo è positivo. Il problema dell'Italia non è quello dell'America, non è quello, ogni paese ha i suoi problemi, non è quello dell'Inghilterra, non è quello della Germania, non è quello della Francia. In Germania stanno studiando in queste ore l'ipotesi di nazionalizzare le banche. Già molte banche tedesche sono nazionalizzate, nel senso che il governo è entrato nel capitale, di fatto le controlla e le possiede, certo. Ma finora è entrato con il consenso degli azionisti, adesso stanno studiando meccanismi di esproprio. Entrare di brutto. Senta, ministro, a proposito di questo, c'è un conflitto fra il governo italiano, che lei ovviamente rappresenta in questo settore, e le banche. A proposito dei bond, cioè lei dice noi sottoscriviamo i bond che le banche emettono, ma vogliamo un interesse, mi pare, del 7,5%, se non erro. No, anche su questo. Io le sono proprio... le domande tornano perfettamente a fagiolo. Sì, bene, no, noi su questa materia, che è il finanziamento pubblico alle banche, cioè ci sono due casi, un conto è il salvataggio bancario, sì. Ma la banca va per aria e noi abbiamo un meccanismo per cui se una banca è in crisi dà un colpo di telefono alla Banca d'Italia, la Banca d'Italia, se si convince che la crisi è vera, dà un colpo di telefono a noi, molto semplificando il meccanismo del decreto che abbiamo fatto in novembre e che è lì e speriamo di non dover applicare. Poi c'è, fuori dai salvataggi, il meccanismo dei finanziamenti. Il meccanismo dei finanziamenti è un meccanismo europeo, non puoi fare una emissione di obbligazioni, di bond italiana a tuo piacere secondo la realtà italiana, tu hai un solo schema, un solo binario, un binario unico è quello europeo, quindi noi abbiamo fatto quello, una bozza, abbiamo lavorato, il direttore generale del Tesoro ha lavorato per un mese con la Banca d'Italia, ha scritto un documento, l'abbiamo sempre discusso nei vari passaggi con l'Europa, l'Europa ce l'ha approvato. L'Europa Scusi ministro, non ho capito, lei dice che questo tasso di interesse che voi richiedete è concordato con l'Europa e non si può... Dire concordato è dire poco, cioè dire gli stati non hanno su questo sovranità. Un tasso diverso, quello di tributi in Europa, lo strumento è illegittimo e quindi ancora peggio. Quello strumento è stato anche proposto alla Francia e insieme alla Francia nei giorni scorsi il direttore italiano del Tesoro, il direttore francese ha concordato alcune piccole varianti ulteriori per andare incontro alle banche. Ma è sbagliato dire il tesoro vuole l'interesse, le banche lo contestano. Quindi quando Enrico Salza del San Paolo dice noi preferiamo essere nazionalizzati che pagare quel tasso di interesse per i bond che emettiamo, dice una butade. Guardi, io mi limito a dire che il testo italiano, lo schema di bond di finanziamento è un testo europeo. Ripeto, non c'è un margine di autonomia italiano in queste materie, okay. Insomma, per cui o così o promico. La minestra o saltare dalla finestra. Bene, cerco di essere molto concreto, sono gli ultimi minuti in cui abbiamo a disposizione per la sua gentilezza il ministro Tremonti, le regioni, gli ammortizzatori sociali e la discussione su dove trovare i soldi. Allora, il problema è questo, non difendere i posti di lavoro improduttivi ma i lavoratori, quindi ammortizzatori sociali, finanziarli meglio. Tremonti dice 8 miliardi a disposizione per una politica seria di irrobustimento del reddito di chi ha difficoltà nel mercato del lavoro. A questo punto però nasce un problema. 2,5 miliardi di euro, una cifra consistente, dovrebbero venire, secondo il Tesoro e il Ministro dell'Economia, dai fondi di finanziamento europei per la formazione sul lavoro. Le regioni che hanno un legame forte, diciamo, con la struttura della formazione professionale, un legame, diciamo, anche di tipo politico, di consenso elettorale, perché è un grande business molto esteso, molto diffuso, le regioni dicono no, quei soldi non toccateceli, quei soldi lasciateceli per l'azione di formazione professionale. E quindi c'è una tensione, c'è un contrasto. Come lo risolviamo, Ministro? Ma guardi, io, siccome all'inizio si è fatto un po' un discorso sulla politica economica del governo, guardi, questo governo ha gestito la criticità maggiore dell'Italia, che è il debito pubblico, e l'ha fatta con una finanziaria anticipata e stabilizzata su 3 anni. Pensi cosa sarebbe trovarsi adesso con l'assalto alla diligenza, i saldi aperti. Questa è stata la prima mossa. E noi ci siamo presentati in campagna elettorale parlando di crisi che arriva e che si aggrava. Altri hanno detto che c'era il miracolo. Sappiamo bene che c'era la crisi. In novembre l'Europa ha consentito di fare qualcosa in più ed è esattamente quello che abbiamo fatto. Il semaforo verde è stato il 26 per tutti i paesi. Noi il 29 abbiamo fatto il decreto anticrisi. Il decreto anticrisi non è solo i 6 miliardi di bonus e agevolazioni, di piccole riduzioni, è anche i 16 miliardi per le infrastrutture, è anche i 10 miliardi che non vanno alle banche, vanno alle imprese attraverso le banche. Quei soldi non finanziano le banche, finanziano le imprese. Se una banca ritiene che non le servono, vuol dire che riesce a finanziare le imprese indipendentemente o no? Questa è una domanda. Abbiamo immaginato necessaria una cifra, io ho detto intorno agli 8 miliardi per gli ammortizzatori sociali, anche questa è un'applicazione del decreto legge. Non vogliamo togliere i soldi alle regioni, anzi vogliamo focalizzare su un'area di bisogno, di sofferenza che la crisi ci presenterà. Io sono convinto del fatto che avendo ben chiare anche le regioni, come dire, l'intensità del cambiamento dei bisogni che cambiano. Un tempo tu avevi un'industria, andava in crisi, un settore andava in crisi, formavi il personale per spostarlo da quell'industria o da un settore a un altro. Adesso ho l'impressione che quel tipo di intervento non possa essere limitato alla formazione. La intensità della crisi ti pone problemi che non sono solo di formare uno per spostarlo da un settore all'altro, e se anche l'altro non va bene, questo è il punto. Quindi io penso che la strada si troverà e sarà utile. Noi non possiamo fare più spesa pubblica di quella che ci è consentita. Io sento tanti illuminati che scrivono sui giornali che dicono fai più deficit, i mercati capiranno se lo fai. Io dico solo, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Lo ha letto dire... Scalfari domenica? Io non ho avuto tempo, ma sì. Cingolani lo ha letto. Era lui, era Scalfari che scriveva questo, no? Siamo nella stessa posizione. Ma Ministro, lei si sente... È un genere letterario che non tratto, però tanti ti dicono autorevolmente, devi fare più deficit. Io dico, tra il dire e il mare c'è di mezzo... C'è di mezzo il mare. Esattamente, cioè dire un conto è fare più deficit, un conto è fare le aste. Noi siamo comunque un paese che ha... Il debito italiano sta crescendo molto meno del debito europeo, dove stanno esplodendo i debiti pubblici, ma questo è una ragione di come dire... Di prudenza. Un dato positivo, finalmente abbiamo un debito meno violento e in crescita meno violenta degli altri... E però è anche un dato che devi considerare, perché aumenta la concorrenza con gli altri. Quindi insomma io credo che facciamo la politica prudente. Ministro, lei si sente solo? All'economia, all'anticrisi, abbiamo fatto in rapporto al prodotto interno lordo esattamente come gli altri paesi. Sì, e in effetti gli altri paesi hanno detto che la nostra politica è stata giusta per combinazione tra efficienza e prudenza. Quindi noi siamo nella linea dell'Europa. Ministro, ci dia una notizia. Sì. Allora, i comuni, per passare dalle regioni ai comuni, anche i comuni guidati dal centrodestra, sono preoccupati perché lei ha detto via circolare, attenzione, non finanziate le opere attraverso non finanziate le opere, aiutami Cingolani. Attraverso l'alienazione del patrimonio pubblico. Sì. Se fosse vero, guardi, è chiaro che... Come domerà la rivolta? Ma secondo me lei legge troppo i giornali. Sì, questo effettivamente è successo. No, io mi limito a dire che la legge è la legge, che le difficoltà ci sono per tutti. Faccio notare che la Cassa Depositi e Prestiti ha fatto finanziamenti a comuni che vanno a chiedere i soldi per fare le opere. Se fossero vietate le opere non andrebbero alla Cassa a chiedere i soldi. In autunno, quando si decidono queste cose per l'anno dopo, la Cassa Depositi tra comuni, regioni, province, comuni e quel che lei ha fatto finanziamenti per 8 miliardi di euro, 16 mila miliardi di vecchie lire, il doppio dell'anno scorso. Se fosse vero che c'è il blocco di queste cose, nessuno sarebbe andato a chiedere i soldi per fare il mutuo, avere capitale e non fare l'opera. Io so bene, sappiamo bene che ci sono difficoltà un po' per tutti. L'interesse generale non è la somma degli interessi particolari, è una cosa un po' più complicata. Ecco, ma qual è la ratio della circolare? Perché i comuni non devono fare opere attraverso l'alienazione del patrimonio? Perché io non credo che sia uno dei grandi temi della realtà italiana questo. Mi limito a dire che il patto di stabilità interno è solo la trasposizione all'interno del patto europeo. Questa è la situazione nella quale ci troviamo. Se spendi a qualsiasi livello, anche se hai la cassa, aumenta l'indebitamento e questo ci porta in difficoltà. Ma poi non è un fatto di Europa, è un fatto di debito generale. Il nostro problema non è solo quello che ti dicono a Bruxelles, è soprattutto quello che ti dice chi valuta il debito pubblico italiano. Finora c'è andata bene, soprattutto perché il debito non cresce più di tanto e perché si capisce finalmente che l'Italia ha moltissimo risparmio privato e quindi è al fondo un paese molto più ricco di altri che avevano un debito privato occulto. Ecco, nell'insieme noi siamo convinti e guardi, risulta dal consenso generale, basta andare in giro, siamo convinti. Questo è un governo che fa le cose giuste, nel modo giusto, con uno spirito di considerazione dell'interesse e del bene. Senta, Ministro, lei ha detto... E credo con molto buon senso. Ecco. Certo. Lei ha detto, le banche italiane non parlano inglese, per questo vanno meno male delle altre, anzi meglio, diciamo, delle altre. Che cosa voleva dire? No, voglio dire che in moltissimi paesi il sistema bancario si è sviluppato su una logica di mezza follia finanziaria, se no non sarebbero tutti o quasi nazionalizzati. Le faccio una roba che magari chi ascolta capisce. Posso fare una domanda provocatoria perché siamo in finale? Se le banche italiane sono meno internazionalizzate, parlano meno inglese e quindi sono meno infarcite di titoli tossici e quindi se la sono cavata un po' meglio, una parte del merito è anche forse dell'ex governatore Antonio Fazio? Ma guardi, io ho sempre detto che l'ex governatore Antonio Fazio faceva le cose giuste in un modo sbagliato. Aveva degli obiettivi, per essere chiari, invece di agire sulle leve dei regolamenti e dei poteri interni, era meglio se faceva delle fusioni, ecco. Mm-hmm. Se volevi difendere le banche italiane, le facevi crescere, non mettevi meccanismi bloccatori, regolamentari contro gli altri. Questa è un po' la situazione, ma è molto più profondo, cioè dire il nostro sistema bancario è un sistema che c'è ancora gli sportelli, ancora adesso vai a chiedere un finanziamento, altrove ti chiedevano no, non ti do un finanziamento, ti vendo un prodotto strutturato, certo. Oppure non c'era lo sportello perché c'era il call center, ecco. Allora, il nostro sistema, con alcune rimarcabili eccezioni, è rimasto nell'insieme molto più diciamo, aderente alla realtà, più al servizio dell'economia reale. Bene, chiudiamo con questa nota di relativo ottimismo. Grazie infinite, Ministro, è stato molto gentile e cortese. Noi adesso dobbiamo interrompere, buon lavoro. In redazione Franca Fossati, Gloria Guerrera, in regia Alessandro Chiappini, Giorgio Matè, la linea Gianluca Nicoletti. Ci vediamo domani alla stessa ora. Grazie a tutti.